Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. I'm really surprised that you are here. You were fighting for the exit. The British people voted in favor of the exit. Why are you here? Queste sono le schermaglie, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, del dopo Brexit. Questo che avete sentito era il presidente della Commissione europea Juncker, che ha incontrato nella plenaria dell'Europarlamento oggi Nigel Farage, che è il leader dell'UKIP, il partito britannico che ha sostenuto fortemente la campagna per l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea. E Juncker fa questa battuta passando vicino, dice: oh, che sorpresa vederti qui, ma non eri quello che aveva lottato per l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, che ci fai qui, insomma? E infatti poi piano piano dovrebbero sloggiare anche gli europarlamentari britannici dal Parlamento Europeo, dalle altre istituzioni europee. Vedremo quali saranno le procedure, perché si prospettano piuttosto lunghe. Fra l'altro oggi il Parlamento europeo ha votato la maggioranza per sollecitare, per velocizzare l'uscita della Gran Bretagna dalla Unione Europea, però ci sono stati anche dei voti contrari, tra cui quelli del Movimento 5 Stelle, che hanno creato molte polemiche. Ne parleremo in modo approfondito oggi, tra l'altro ancora in corso, deve essere ancora in corso il Consiglio Europeo, quindi l'argomento centrale è sempre la Brexit, naturalmente, con le varie sfaccettature, ma poi parleremo anche di altri argomenti, parleremo dei nuovi palinsesti che vi aspettano per la TV autunnale. Voi naturalmente prediligete sempre la radio, Radio 24, in particolare Effetto Notte, però naturalmente l'informazione è a tutto campo. E poi altri temi, come per esempio la paura di alcuni giocatori, anzi più la paura di Conte, di alcuni giocatori della nazionale che potrebbero essere infortunati per la sfida con la Germania di venerdì. Insomma, molti temi. Quello che però vi chiedo sul quale vi chiedo di riflettere è questo: appunto, il Parlamento europeo oggi ha votato questa mozione, vi dicevo, in cui si sollecita l'uscita velocizzata della Gran Bretagna dall'Unione Europea e dalle istituzioni europee. Qualcuno, vi dicevo, ha votato contro, quindi Farage, ma anche il Movimento 5 Stelle, l'estrema destra. Voi sareste più, trovereste più opportuno velocizzare effettivamente, far uscire più velocemente la Gran Bretagna, visto che ha votato per la Brexit, fuori dall'Unione Europea, o ritenete invece più giusto lasciare il tempo ai britannici di avviare le procedure, di negoziare con l'Unione Europea e quindi di prendersi appunto dei tempi supplementari? 349-238-6666 è il numero per i vostri WhatsApp o SMS, 349-238-6666, oppure potete scrivere comodamente, come sempre, sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Mentre voi riflettete, passiamo quindi al quadro, come sempre, riassuntivo della giornata. Brexit: il Parlamento europeo vota per l'uscita rapida della Gran Bretagna dall'Europa e per Draghi l'impatto sul PIL europeo potrebbe essere fino allo 0,5%. Borse e mercati europei rimbalzano dopo lo shock Brexit. Milano guida la riscossa e recupera più del 3%. ONU e le Nazioni Unite votano per l'ingresso dell'Italia in Consiglio di sicurezza. Ballottaggio con l'Olanda. Migranti: Frontex avverte 300.000 potrebbero arrivare in Italia dalla Libia e secondo i dati UNICEF entro il 2030 potrebbero essere a rischio morte 69 milioni di bambini. La scia infinita di femminicidi: a Modena un uomo uccide l'ex compagna strangolandola e la chiude in un frigorifero. Arrestato confessa, lei lo aveva denunciato per maltrattamenti. Dieselgate: accordo definitivo fra Volkswagen e le autorità americane. Il gruppo tedesco verserà fino a 14 miliardi di dollari. I nuovi palinsesti TV, novità in Rai, torna Santoro con speciali in diretta, poi Eder Parisi e Cuccarini e una serata su Mina e Celentano. Calcio: Euro 2016, dopo il successo sulla Spagna, la nazionale pensa già alla Germania, ma preoccupano gli infortuni. E per il Milan, Berlusconi sceglie Montella. Partiamo quindi dal Consiglio europeo in corso a Bruxelles, una due giorni in cui si discute principalmente appunto della Brexit, e poi dal Parlamento europeo che ha approvato la risoluzione che chiede una implementazione, così si legge, un'implementazione rapida e coerente della procedura di revoca dell'appartenenza della Gran Bretagna all'Unione Europea in conseguenza della decisione del popolo britannico sul referendum. E nel frattempo il presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, ha messo in guardia dalle conseguenze che la Brexit può avere sul PIL della zona euro, fino a meno 0,5%, e sulle monete di tutto il mondo. Nel frattempo non intende dimettersi Jeremy Corbyn, che è il leader del partito laburista britannico, colpito oggi da una mozione di sfiducia votata dall'80% dei deputati del partito, del suo partito, il Labour. 172 voti contrari, solo 40 i parlamentari che hanno espresso fiducia al leader eletto lo scorso settembre, accusato di aver condotto una campagna troppo tiepida di sostegno al Remain, cioè alla permanenza della Gran Bretagna in Unione Europea, in occasione appunto del referendum. Dimettendomi tradirei il mandato ricevuto dalla base, ha dichiarato Corbyn, che ha sottolineato il valore non vincolante di questo voto. E sarà a Bruxelles già domani la prima ministra scozzese Nicola Sturgeon, intenzionata a preservare la posizione di Edimburgo, della Scozia, all'interno dell'Unione dopo il voto di giovedì che ha sancito appunto l'uscita del Regno Unito. Sturgeon incontrerà Schulz ma non Tusk. Tomorrow I will make an initial visit to Brussels to set out Scotland's position and interest to representatives of the major groups in the European Parliament and to the President of the European Parliament, Martin Schulz. Sarà il primo passo per cercare di mantenere i legami tra la Scozia e l'Unione Europea la visita a Bruxelles, annunciata per domani dal primo ministro Nicola Sturgeon. Non ci possiamo permettere di aspettare 3 mesi, dice Sturgeon, mentre il partito di governo è impegnato a risolvere i propri problemi interni. I tempi sono stretti, ecco perché la leader dello Scottish National Party ha intenzione di incontrare già domani il presidente dell'Europarlamento Schulz, che però frena. La saluterò e ascolterò quanto ha da dirmi, le parole di Schulz, ma lo status della Scozia di membro dell'UE è una questione interna al Regno Unito. Declina l'invito invece Donald Tusk. Vista la situazione, fa sapere il presidente del Consiglio europeo, l'incontro è inopportuno. Emiliano Mariotti, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E per quanto riguarda i mercati finanziari, che in questi giorni hanno subito l'effetto Brexit, giornata oggi di rimbalzo per le borse europee e per Wall Street. I mercati rialzano la testa dopo il crollo iniziato venerdì mattina, anche se i livelli pre-Brexit restano lontani. Milano reduce da un meno 16% in 2 sedute e la piazza migliore guadagna il 3,3%, trainata dalle banche, fortemente penalizzate nei giorni scorsi. Resta in rosso invece Unicredit, che dalla chiusura di giovedì perde il 31%. La tensione dunque resta alta, tanto che il governo è pronto a un piano di emergenza per sostenere il comparto bancario se necessario. Di questo sta discutendo con l'Europa. Stiamo monitorando la situazione, ci sono diverse modalità di azioni possibili, siamo in stretto contatto con le autorità italiane, conferma il vicepresidente della Commissione europea, Dombrovskis. Intanto le banche centrali si muovono, la Bank of England dà liquidità alle banche britanniche per 3,1 miliardi di sterline, la BCE continua ad acquistare asset e lo spread chiude in calo, recupera la sterlina che ha toccato i minimi da 31 anni sul dollaro, ma gli analisti restano cauti e i mercati incerti. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Brexit, l'estate dell'incertezza. Come affrontare e vincere i rischi della Brexit? Il Sole 24 Ore viene incontro ai dubbi con un inserto speciale ogni giorno a partire da domani. Un appuntamento che vi accompagnerà tutte le mattine anche a Radio 24 nei giornali radio delle 7 e delle 8. L'altalena dei listini di borsa, le difficoltà e i tempi fatalmente lunghi della politica, i rischi per le banche, i commerci, gli spostamenti delle persone. Il voto per Brexit giovedì scorso ha aperto una stagione di incertezze nella quale si fatica a cogliere i segnali giusti e a prendere le decisioni necessarie e più adatte. È una estate dell'incertezza che riguarda i mercati così come gli studenti, le imprese, i lavoratori, il risparmio, gli investimenti. E allora, per offrire ai lettori un punto di riferimento in queste giornate turbolente, Il Sole 24 Ore presenta da domani una serie di pagine speciali dedicate ai molteplici impatti di Brexit. L'estate dell'incertezza sarà proprio il sottotitolo di questa iniziativa che prosegue e amplia le pagine quotidiane di bussola per i risparmiatori e i cittadini. Via via, da domani fino alla prossima settimana, verranno illustrati i possibili effetti dello shock Brexit per le banche e i mutui, le assicurazioni e le polizze, il commercio, l'economia reale, le pensioni, la casa, gli studi, per approfondire e spiegare con tempestività il nuovo scenario di questa Europa che è in cerca di un nuovo equilibrio. Mauro Meazza, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso parliamo invece dell'Italia. All'ONU le Nazioni Unite votano per l'ingresso dell'Italia in Consiglio di Sicurezza per un seggio non permanente, per ora però va al ballottaggio con l'Olanda, poi ci aggiorniamo direttamente collegandoci con gli Stati Uniti. Invece notizie che riguardano i migranti: sono 300.000 i migranti che dall'Africa occidentale potrebbero sbarcare in Italia sulla rotta del Mediterraneo centrale. Questo è quanto afferma il direttore esecutivo dell'agenzia europea Frontex, Leggeri, in base a calcoli sui passeggeri registrati ad Agadez in Niger, dove in un un mese ne sono stati osservati circa 13.000. Per l'UNICEF, poi, senza interventi adeguati, entro il 2030 69 milioni di bambini con meno di 5 anni moriranno per cause prevedibili. Adesso in Italia con la cronaca e questa scia infinita di femminicidi, un bollettino senza fine. Questa volta a Modena la donna aveva già segnalato le violenze alle forze dell'ordine. Uccisa dall'ex compagno e chiusa in un frigorifero fuori uso in cantina. Ancora un caso di femminicidio, questa volta la scena del delitto è a Modena. Betta Fella, 55 anni, sarebbe stata strangolata dall'ex convivente Armando Canò, 50 anni, al termine dell'ennesimo litigio. Interrogato nella notte in questura, l'uomo avrebbe confessato di aver ucciso la donna con la quale aveva appena interrotto la relazione. Canò è stato arrestato per omicidio. Secondo alcuni racconti dei vicini, la donna ha chiesto spesso aiuto dopo essere stata maltrattata dal compagno. L'ultima violenza risalirebbe una settimana fa, quando Betta Fella è ricorsa alle cure mediche per aver perso alcuni denti. Dopo ogni abuso subito, la donna denunciava tutto alle forze dell'ordine. A far scattare le indagini sono stati i vicini, che hanno chiamato i vigili del fuoco perché dalle cantine arrivava un odore sgradevole. Secondo la Casa delle Donne per non subire violenza di Bologna, Betta Fella è la quarta vittima di femminicidio dall'inizio dell'anno in Emilia-Romagna. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E sempre per la cronaca si parla anche di un padre orco: picchiava, maltrattava, abbandonava i figli in mezzo a sporcizie ed escrementi, costringendoli a lunghissimi digiuni. È arrestato a Vittoria, in provincia di Ragusa, un uomo che sottoponeva a feroci maltrattamenti 4 figli minorenni. L'uomo era già finito in passato nel mirino delle forze dell'ordine per lo stupro della moglie. Quando la donna poi è fuggita per le sue violenze, i figli sono rimasti al marito, che invece di accudirli ha dato prova di estrema violenza. Adesso di nuovo all'estero, lo scandalo Dieselgate, accordo definitivo fra Volkswagen e le autorità americane. Il gruppo tedesco, confermando le anticipazioni della notte, verserà fino a 10 miliardi per coprire i costi legali e i risarcimenti legati ai ricorsi dei proprietari dei veicoli coinvolti nello scandalo, fino a 2,7 miliardi per un fondo ambientale e altri 2 miliardi per promuovere la tecnologia per veicoli a zero emissioni, praticamente poco più di 14 miliardi. Ora di nuovo in Italia con la TV, palinsesti Rai, si sapeva quasi tutto, già c'erano state delle anticipazioni, eppure qualche sorpresa è arrivata. Ci sarà lo show di Lorella Cuccarini e Eter Parisi per la prima volta insieme, poi una serata evento con Adriano Celentano e Mina, anche se non si sa in quali termini, insomma, se in collegamento oppure solo con la sua voce, eccetera. Poi la prima serata di Rai 1, che inizierà molto prima, cioè alle 21.15, già era ufficiale invece l'arrivo a Rai 3 di Gianluca Semprini da Sky, arrivo che ha creato molti malumori tra i giornalisti interni Rai, essendo un esterno. Poi ne parleremo meglio dopo. E c'è l'omaggio a Bud Spencer, sarà allestita domani in Campidoglio a partire dalle 10 la camera ardente per Bud Spencer, l'attore napoletano scomparso ieri all'età di 86 anni. I funerali sono previsti per giovedì alle 12 nella chiesa degli artisti di Piazza del Popolo, sempre a Roma. Per chiudere lo sport, il Milan ha l'accordo con Vincenzo Montella. Berlusconi ha deciso, fra oggi e domani diventerà Montella ufficialmente il nuovo allenatore rossonero. Prima deve trovare l'intesa con la Sampdoria per liberare l'ex attaccante. E poi c'è anche questa notizia, sempre che riguarda le Olimpiadi di Rio 2016, questa paura del virus Zika. Il numero uno al mondo, l'australiano Jason Day, il numero uno al mondo di golf, ha rinunciato a disputare il torneo di golf dei Giochi Olimpici di Rio, tra il 5 e il 21 agosto, per paura del virus Zika. Lo ha annunciato lo stesso giocatore sul profilo Twitter. L'annuncio poi tra l'altro segue di una settimana quello del nord irlandese Rory McIlroy, ex numero uno del mondo, che deserterà il torneo olimpico per le stesse motivazioni. E naturalmente Euro 2016, dopo il successo sulla Spagna, la nazionale pensa già alla Germania. Sapete che la sfida è sabato prossimo, ma cominciano a preoccupare gli infortuni, anche di questo ci occuperemo più tardi. Intanto invece mi voglio occupare anche dei vostri messaggi. Sapete, vi dicevo che oggi il Parlamento europeo, poi capiremo quanto possa essere vincolante questo voto, ha votato per velocizzare l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea. Vi chiedevo se lo ritenete opportuno o ritenete invece che sia più giusto lasciare la Gran Bretagna il tempo, insomma, di fare le sue procedure, prendere le sue decisioni, di negoziare magari qualcosa con l'Unione Europea, qualcosa di ulteriore rispetto già a degli accordi presi. Marco dice: non serve essere fini psicologi per capire che se non si riesce a dare una conclusione alla sceneggiata inglese, si pone di fronte agli occhi di tutti l'inutilità di stare formalmente nell'Unione. Tentennamenti e indecisioni in questo momento sono la strada verso la demolizione dell'Unione Europea. Poi Maurizio da Milano dice: ma la Scozia dentro, visto che hanno votato a favore? E adesso effettivamente la Scozia, diciamo, sta facendo tutto il possibile per capire come rientrare nell'Unione Europea. Qualcuno invece scrive: Brexit subito, quindi fuori subito la Gran Bretagna. E dice un altro ascoltatore: tempi logici per uscire, ma non 2 anni, perché Cameron aveva annunciato ci vorranno più o meno 2 anni per uscire definitivamente. Invece di prendere Brexit come segnale per migliorare il Parlamento europeo, fa la voce grossa inutilmente il Parlamento, dice questo ascoltatore o ascoltatrice. Continuate con le vostre riflessioni, pagina Facebook di Effetto Notte, sempre lì per voi, giorno e notte potete aderire senza indugio, oppure il numero per i messaggi, SMS e WhatsApp, che è il 349-238-6666. Viabilità, torniamo insieme. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Sempre insieme, Roberta Giordano con voi, i vostri messaggi che continuano ad arrivare. Allora, dopo il riassunto della giornata, cominciamo a entrare nel cuore dei vari argomenti. Ancora, dicevo, i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte e al 349-238-6666, dove leggo per esempio questo WhatsApp: fuori subito la Gran Bretagna e a mai più. Qualcuno che appunto spinge, come il Parlamento europeo, verso la velocizzazione dell'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, così oggi ha votato il Parlamento europeo, e chi invece dice ci vogliono i tempi opportuni. Per esempio il Movimento 5 Stelle ha votato contro questa, chiamiamola, sollecitazione. Dice questo ascoltatore, Gabriele Tupone, scrive: uscita immediata ed espulsione degli europarlamentari inglesi. Poi Giuseppe da Roma: è meglio che il Regno Unito resti in Unione Europea, è un bene per l'Italia. Ancora i vostri messaggi a dopo, intanto vi ricordo, se non avete acceso puntualmente alle 21, quali sono le notizie principali. Il Parlamento europeo spinge per la Brexit, il Presidente della Commissione europea Juncker, molto duro è stato oggi, niente giochi, dice intanto la Merkel, che assicura per la Gran Bretagna nessun privilegio. Le borse europee rimbalzano, Milano guida la riscossa con un più 3% e intanto Draghi, Presidente della Banca Centrale Europea, avverte questa uscita della Gran Bretagna potrebbe avere un impatto sul PIL dell'Eurozona fino allo 0,5%. L'ONU, che vota per l'ingresso dell'Italia nel Consiglio di sicurezza, è al momento al ballottaggio con l'Olanda, poi vedremo come finisce questo voto. E poi la Volkswagen, che trova un'intesa con gli Stati Uniti per lo scandalo del Dieselgate, verserà oltre 14 miliardi. Euro 2016, la Germania nel mirino azzurro, abbiamo imparato la lezione, intanto Montella c'è come allenatore per il Milan. Europa 24 notte. That's the last time you are applauding here. I'm really surprised that you are here. You were fighting for the exit. The British people voted in favor of the exit. Why are you here? Sentito in buona parte all'inizio di Effetto Notte Juncker, Presidente della Commissione Europea, che nella plenaria oggi del Parlamento Europeo incontra Farage, Nigel Farage, che è leader dell'UKIP, del partito della Gran Bretagna, che ha guidato questa campagna per l'uscita appunto del Regno Unito dall'Unione Europea, e fa questa battuta. Dice: che sorpresa trovarti qui, non eri quello che aveva lottato per l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea. Beh, quindi oggi si è aperto a Bruxelles intanto il primo Consiglio Europeo dopo la decisione del Regno Unito di uscire dall'Unione. Si tratta di 1 a 2 giorni, però con questa peculiarità. Oggi è una riunione ancora a 28, i 28 paesi che compongono l'Unione Europea. Da domani i paesi membri, invece, da domani mercoledì, scenderanno a 27, dopo appunto l'addio del Regno Unito. Si discute innanzitutto in questo Consiglio dell'esito del referendum del 23 giugno, le procedure di uscita della Gran Bretagna, che potrebbero anche durare 2 anni. E nel frattempo cosa è successo? Come vi dicevo, che il Parlamento europeo ha votato una mozione che chiede un avvio rapido di queste procedure di uscita del Regno Unito. In pratica, quindi, bisogna attivare il cosiddetto articolo 50, di cui abbiamo parlato anche ieri, del Trattato di Lisbona. Il Parlamento, in pratica, invita Londra ad accelerare il processo, dice, per evitare un'incertezza dannosa per tutti e per proteggere l'integrità dell'Unione Europea. Il testo è stato adottato con 395 voti a favore, 200 contrari, 71 astenuti. Tra i contrari, vi dicevo prima, c'è l'UKIP di Farage e anche i gruppi di estrema destra e anche il Movimento 5 Stelle. Sergio Nava, ciao Sergio. Ciao Roberta. Sergio, innanzitutto che è vincolante questo voto del Parlamento europeo, che peso può avere? Diciamo che il Parlamento europeo su queste questioni, tra l'altro una questione totalmente nuova, dà più una pressione, fa pressione, e anche per questo si cerca normalmente di convocare prima di grandi decisioni o di grandi eventi o di vertici significativi, si cerca sempre di convocare il Parlamento europeo il giorno prima o poche ore prima per dare un po' la linea, che poi venga seguita un altro discorso, perché il Parlamento europeo ha codecisione su alcuni temi, ma su questi dà più un indirizzo tra virgolette politico. Attenzione, anche interessante notare, come riportava anche un'agenzia TM News nel pomeriggio, che è cambiata sono cambiate le parole nella risoluzione del Parlamento europeo. Inizialmente era immediatamente, poi è diventato il prima possibile invocare l'articolo 50. Quando potete, poi sarà la prossima. E qui c'è un po' forse la mano tedesca, la Merkel in questi giorni. È stata un po' contrastante. È stata contrastante tra l'accomodante e il fate subito, però la mania tedesca è entrata, insomma, Germania, sappiamo il peso che ha in Europa, è entrata anche per a smussare un po' questa risoluzione, quindi sempre i giochi politici a Bruxelles che conosciamo, insomma. Senti, invece, per quanto riguarda il Consiglio europeo, è ancora in corso? Allora, siamo alla cena e siamo al momento clou, perché le prime due ore, a parte l'intervento di Martin Schulz, che ha di fatto riferito quanto deciso dalla plenaria in mattinata, si è parlato d'altro, si è parlato di immigrazione e di altri temi, politica estera, rapporto con la NATO. Adesso si è nel clou. Quindi nel clou a cena, perché tante decisioni si prendono a tavola, vuoi dire, Sergio? Normalmente le decisioni importanti si prendono a tavola. Questa è la più importante di questi due giorni, e in questo momento, mentre io e te parliamo, c'è David Cameron che sta affrontando gli altri 27. La fine di questo incontro potrebbe essere forse prima di mezzanotte, ma non azzardo veramente previsioni. Domani non ci sarà Cameron, non per scelta sua, perché tecnicamente lui potrebbe sedere, ma perché non è stato invitato. Perché tecnicamente al momento la Gran Bretagna, se guardiamo la cosa a un punto totalmente tecnico, la Gran Bretagna è a tutti gli effetti un membro dell'Unione Europea, perché non ha mai chiesto di uscirne. E anche qui è interessante notare come ci sia già una lotta dietro le quinte tra la Commissione Europea, che vuole condurre lei i negoziati con Londra, per diciamo, a livello tecnico, per definire questa uscita, e il Consiglio europeo, cioè i 27 paesi membri che vorrebbero sopravanzare a Commissione europea. C'è anche questa battaglia dietro le quinte, quando Juncker dice: ho dato mandato, e c'è una lettera anche ai miei direttori generali, non parlare con Londra, si riferisce a queste mosse che la Commissione europea sta facendo. Quindi all'interno della stessa Europa, diciamo a 27, c'è una spaccatura, se vogliamo, su chi dovrà, quando la Gran Bretagna invocherà l'articolo 50, condurre questi negoziati. Poi, tra quelli che hanno votato contro questa mozione del Parlamento europeo, abbiamo detto, vabbè, Farage naturalmente, gruppi dell'estrema destra, ma anche il Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle, beh, su questo devo dire, Di Maio a maggio è stato al Parlamento europeo in visita a Strasburgo, ero lì, gli posi proprio la domanda all'epoca sulla Brexit, e disse allora già qual era la posizione dei 5 Stelle, cioè loro sono di fatto favorevoli, la loro linea politica è il referendum, è la loro storia politica di fatto, per cui il fatto che la Gran Bretagna abbia deciso una cosa con un referendum e il referendum abbia stabilito una determinata cosa, cioè di uscire dall'Unione, per loro è la volontà popolare, questa è la linea politica del Movimento 5 Stelle, quindi io sinceramente non mi stupisco, perché è, come dire, c'è una... di fatto una coesione, cioè, di pensiero. Sì. Non vogliamo, insomma, che si acceleri, nel senso, lasciamo i tempi di Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle dice: c'è stato un referendum e noi rispettiamo la volontà del referendum britannico, fondamentalmente. Grazie Sergio Nava. Ciao, ciao. Sergio. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. Naturalmente oggi è intervenuto anche Renzi al Parlamento europeo, sentiamo un passaggio, ha riconfermato cose che aveva detto anche ieri in questa trilaterale, no, con Angela Merkel e col presidente francese Hollande, ma sentiamo cosa ha detto oggi. Se i nostri partner europei accetteranno finalmente l'idea della scommessa di un'Europa più capace di valori intesi come valori sociali, un'Europa con l'anima e non soltanto un'Europa che guarda il portafoglio, io penso che paradossalmente lo shock della Brexit potrebbe essere persino un fatto positivo. Gli inglesi, i britannici hanno votato, punto, si volta pagina. Noi abbiamo bisogno di un'Europa che abbia attenzione un pochino di più al cuore e un po' meno al portafoglio dei soliti noti. Così Gerardo Pelosi a Bruxelles del Sole 24 Ore. Ciao Gerardo, così dice Renzi da più tempo, insiste, no? Dice tra l'altro questo, come dicono da più direzioni, questo voto della Gran Bretagna deve essere, sì, è stato uno shock, c'è molta tristezza, amarezza, eccetera, però deve essere uno scossone per far capire che effettivamente l'Europa deve cambiare, no? Dice più attenta ai cuori e meno ai portafogli, sì, di taluni. Sì, come ha detto, come dicono i latini, ex malo bono, e cioè utilizzare, avere, volgere in un senso di opportunità, di nuove opportunità, di nuove occasioni, quella che in realtà è un fatto traumatico per tutta la storia della costruzione europea. C'è da dire che in questa partita, che sarà una partita lunga, e quella di oggi, il Consiglio europeo è stato qualcosa a metà tra il processo a Cameron e l'inizio di una lunghissima partita a scacchi che forse si concluderà alla fine dell'anno, perché come giustamente ricordava Sergio Nava, il Regno Unito, il governo inglese ancora non ha notificato la decisione, una cosa che avverrà quando ci sarà il nuovo Premier, quindi non prima di settembre-ottobre. E quindi la Commissione non ha ancora predisposto tutta la serie, diciamo, di documenti e di norme che dovranno essere oggetto della notifica. Si parla di centinaia e centinaia di documenti che devono essere preparati, perché un'eventualità del genere non era stata neppure presa in considerazione. Ma il Presidente del Consiglio italiano, in realtà, che ha partecipato a questo prevertice a Berlino, rientra con questa decisione inglese, rientra nei giochi europei, perché un po', come dire, per sottrazione adesso l'Italia ha un ruolo importante da giocare, è il terzo paese più popoloso, è il paese che ha un premier che esprime il gran numero, un numero importante di deputati eurosocialisti, della famiglia socialista, e quindi ha voce in capitolo. Allora cosa ha fatto Renzi? Ha chiesto ovviamente alla Merkel un aiuto all'Italia sui due dossier che sono in un certo senso quelli più sensibili. Da un lato quello dei conti pubblici, e quindi maggiore flessibilità, se non proprio fare spesa a debito, e quello di un'operazione sistemica sulle banche italiane. Le banche italiane, oggi c'è stata una dichiarazione del commissario all'attività finanziaria Dombrovskis, che ha detto che è in corso una trattativa tra la Commissione e le banche italiane per forme, come dire, di deroghe, non tanto al bail-in quanto a questo punto alle norme, che sono norme che risalgono a 50 anni fa, sulla concorrenza e quindi agli aiuti di Stato. Di più non ha voluto dire Dombrovskis, e Renzi ha smentito che ci siano rischi per le banche italiane, ha smentito che ci siano anche negoziati, così anche come il vice ministro dell'economia Zanetti. A questo proposito, ne approfitto Gerardo, perché abbiamo anche questo passaggio di Renzi che rassicura i risparmiatori. Stiamo discutendo, se ci saranno emergenze le affronteremo, l'importante è che i cittadini siano consapevoli che non c'è nessun rischio per i loro risparmi, questa è l'unica cosa che conta. Dall'altro lato c'è bisogno però di un'Europa che finalmente si liberi dalla visione per cui conta solo l'austerity. Insomma, bene stare attenti ai bilanci pubblici, giusto, ma dobbiamo anche creare investimenti, creare innovazione, dare opportunità, creare lavoro. Se non c'è lavoro è evidente che una parte del paese, dei paesi, voterà sempre contro l'Europa, perché vedrà l'Europa come la responsabile della crisi. Ecco, appunto, no? Gerardo, parlavamo prima appunto del consenso, della popolarità dell'Europa negli ultimi anni. Grazie Gerardo Pelosi. Ciao Gerardo da Bruxelles. Grazie a voi, buonasera. Ciao Gerardo. E adesso invece qualche vostro messaggio prima di lasciarci per questa breve pausa di creazione. Luciano sulla pagina Facebook di Effettonotte scrive: uscita immediata, il popolo ha deciso, questa sì che si chiama democrazia. Gilles scrive: spero che pagheranno cara questa scelta, e ai grillini felici per la Brexit auguro di perdere il lavoro causa Brexit. Insomma, vabbè, ognuno poi la pensa come vuole. Domenico dice: il popolo ha deciso e bisogna rispettare la sua decisione, Brexit immediata. Poi un altro messaggio tra la pagina Facebook e i WhatsApp e gli SMS, questi a 349-238-6666, scrive questo ascoltatore o ascoltatrice, mettete almeno anche un nome d'arte: la Gran Bretagna nel Parlamento europeo uscita subito di tutti i parlamentari, si dovrebbero dimettere insieme ai 5 Stelle che la pensano come loro, che tradiscono il loro essere europei. Poi, scusate la voce, Daniele dice: come mai tacciono i vari Salvini e Le Pen? Si sono spaventati? Non è più tanto facile ora sostenere che si sta meglio senza Europa? In realtà Daniele, Marine Le Pen del Fronte Nazionale Francese sta cavalcando proprio in questi giorni l'ipotesi di una Frexit, come l'hanno chiamata, l'eventuale uscita della Francia dall'Unione Europea, e lo stesso Salvini ha detto che vorrebbe fare il referendum anche in Italia. In realtà, voi continuate con le vostre riflessioni: è giusto che si velocizzi l'uscita della Gran Bretagna, le procedure per l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, oppure bisogna dare il tempo senza forzare appunto il percorso? 349-238-6666 oppure pagina Facebook di Vettonotti. Ci sentiamo un momento. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Eccoci insieme, Roberta Giordano con voi, come sempre i vostri messaggi al 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte, per rispondere questa sera alla sollecitazione, diciamo, del Parlamento Europeo nei confronti della Gran Bretagna. Il Parlamento Europeo ha votato a maggioranza dicendo che la Gran Bretagna si deve sbrigare a uscire dall'Unione Europea, visto che ha votato per la Brexit, mentre ci sono altri che dicono no, bisogna lasciare il tempo giusto. Addirittura Cameron, primo ministro uscente della Gran Bretagna, dice ci potrebbero volere 2 anni. Cosa ne pensate? Accelerazione oppure lasciare i tempi opportuni? 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte. E intanto dice per esempio questo ascoltatore, Lorenzo da Roma: io sono più che europeista, Cameron è evidente che è sfuggita la situazione di mano, quindi l'Unione fa bene ora a fare il pugno duro. Enzo da Milano: secondo me non è il Regno Unito che deve uscire dall'Unione Europea, ma solo l'Inghilterra e il Galles, mentre ci rimane limitatamente Scozia e Ulster. Anche la Danimarca è una situazione analoga. E poi parla della Groenlandia, che è fuori, questo Enzo da Milano. Giulio: nessun trattamento di favore, stanno succhiandoci il sangue da sempre, si sono autoesclusi, peggio per loro, conclude Renzo. E poi altri messaggi, per esempio Francesco da Milano dice: ciao Roberta, il divorzio breve anche per la Gran Bretagna dall'Unione Europea, a proposito del divorzio breve di cui si discute che già in parte è realtà in Italia. Poi Roberto da Milano: le regole si rispettano, è il singolo paese a chiedere formalmente di uscire, non il Parlamento ad espellere, il referendum era consultivo, se poi si doveva trovare mediazione coi greci, a maggior ragione con i britannici. Intanto, allora vi aggiorno su questa notizia che è di pochi istanti fa, riguarda Istanbul, ancora attentati, 2 esplosioni all'aeroporto di Istanbul, si parla di diversi feriti. E vediamo adesso anche questo aggiornamento, c'è un'altra agenzia che arriva, un funzionario parlando, coperto da anonimato, ha detto che non è ancora chiaro se sia trattato di bombe o di un attentato suicidio. Media turchi ed internazionali riferiscono che spari sono stati uditi da testimoni prima delle esplosioni, quindi di nuovo purtroppo la Turchia, in particolare Istanbul, che si ritrovano nella morsa del terrorismo. Era un po' di tempo in realtà che sembrava che la situazione fosse un po' più tranquilla, sapete, già qualche settimana fa una serie di attentati. Allora, io intanto vi ricordo anche le altre notizie più importanti, che sono appunto la Brexit col Parlamento Europeo che vota per l'uscita rapida della Gran Bretagna dell'Europa. Per Draghi l'impatto sul PIL europeo potrebbe essere sino allo 0,5%. Le borse, mercati europei rimbalzano dopo lo shock Brexit, Milano guida la riscossa e recupera più del 3%. ONU e le Nazioni Unite votano per l'ingresso dell'Italia in Consiglio di Sicurezza, ballottaggio con l'Olanda, tra poco chiariremo un po' a che punto sta questo voto, poi migranti con l'agenzia Frontex che avverte 300.000 potrebbero arrivare in Italia dalla Libia e secondo i dati UNICEF entro il 2030 potrebbero essere a rischio morte 69 milioni di bambini. La scia infinita di femminicidi, a Modena un uomo uccide l'ex compagna strangolandola e la chiude in un frigorifero, arrestato confessa, lei lo aveva denunciato per maltrattamenti. I nuovi palinsesti TV, novità in Rai, torna Santoro con speciali in diretta e poi anche Iter Parisi e Cuccherini. Per il calcio, Euro 2016, dopo il successo sulla Spagna, la nazionale pensa già alla Germania. Quindi dicevamo che l'Italia va al ballottaggio alle Nazioni Unite contro l'Olanda per un seggio non permanente al Consiglio di Sicurezza dell'ONU per il biennio 2017-2018. Marco Valsania da New York. Ciao Marco. Ciao. Corrispondente del Sole 24 Ore. Marco, a che punto sta questo voto? Prima di tutto ci spieghi l'importanza di questo passaggio. L'importanza è legata chiaramente al ruolo che l'Italia e che comunque tutti i paesi che entrano nel Consiglio di Sicurezza, quindi ai vertici dell'organizzazione internazionale, possono svolgere nell'influenzare così le missioni diplomatiche dell'ONU e affrontare in questo modo crisi gravi che in questo momento tra l'altro riguardano particolarmente il Mediterraneo, con la guerra in Siria, con la situazione di instabilità in Libia, con l'esodo dei migranti. Ecco, questa è anche una delle forti ragioni che hanno portato alla candidatura dell'Italia, alla campagna, diciamo, della diplomazia italiana per un ingresso tra i seggi a rotazione del non permanenti del Consiglio di Sicurezza. Sono 10 questi seggi, 5 sono in palio oggi e quello da assegnare resta ancora quello appunto in ballottaggio tra Italia e Olanda. Gli altri, a questo punto, gli altri 4 sono stati assegnati: Asia, America Latina, Africa. 2 seggi erano in palio per l'Europa, uno è andato direttamente alla Svezia in prima battuta, al primo voto. Invece Olanda e Italia non hanno ricevuto il quorum minimo per vincere e sono andati a un secondo e poi a un terzo ballottaggio, sempre senza riuscire a risolvere l'impasse. A questo punto il quarto voto è in corso e potrebbe, diciamo, in serata questa impasse potrebbe risolversi o a vantaggio dell'Italia o dell'Olanda. Chiaramente, quindi vediamo come andrà a finire, naturalmente, no? Sarebbe da quanto tempo l'Italia non mi sembra che frequentemente sia riuscita a avere, forse. Sì, diciamo che è l'ultimo biennio che ha fatto al vertice dell'ONU in Consiglio di Sicurezza, l'Italia risale a una decina d'anni fa, 10 anni fa. Però l'Italia comunque anche lei una tradizione di presenza nel Consiglio. Questo sarebbe, se non uscirà vittoriosa, sarebbe il settimo mandato, diciamo, la settima presenza dentro il Consiglio, però una presenza che appunto in questo momento manca da dieci anni. Quindi speriamo, vediamo se entro la serata arriva questo voto definitivo. Grazie Marco Valsani da New York. Ciao Marco. A voi, grazie. Adesso leggo ancora aggiornamenti per quanto riguarda queste esplosioni a Istanbul, in Turchia. Secondo la CNN turca, le esplosioni sarebbero avvenute agli arrivi dei terminal internazionale dell'aeroporto Ataturk. Ma ci colleghiamo direttamente con il nostro Marco Barbonaglia. Cioè, sì, in collegamento, Marco. Eccomi. Sì, esatto. È come dici tu, si parla di due esplosioni. La notizia appunto è stata data da CNN Turk. Due esplosioni nella zona internazionale, dei voli internazionali, si parla di colpi di pistola sparati dal parcheggio delle auto, ci sarebbero molti feriti, si starebbero addirittura utilizzando i taxi come ambulanze di fortuna. Le prime immagini che si vedono mostrano la gente che cerca rifugio tra i banchi dell'aeroporto, pare che in questo momento ci sia un'operazione della polizia in corso, che ci siano le squadre speciali che stanno intervenendo in questo momento all'aeroporto Atatürk di Istanbul, ma al momento è tutto molto confuso. Le ultimissime notizie parlano anche di un probabile attentatore suicida, una delle due esplosioni. Naturalmente è tutto ancora da confermare, quello che sappiamo è che i feriti siano molti e purtroppo l'esperienza ci insegna che in questi casi di solito il numero di feriti ed eventualmente anche di morti purtroppo è sempre destinato a salire e per il momento ti restituisco la linea. Grazie Marco Barbonaglia, e poi ovviamente man mano che arriveranno gli aggiornamenti, appunto diceva anche Marco da Istanbul, probabilmente è un attacco suicida, ma avete sentito anche la confusione di sottofondo, ancora difficile definire bene l'accaduto, appunto si vedono e si legge delle TV turche che mostrano, come ci diceva anche Marco Barbonaglia, immagini di taxi che portano via i feriti, quindi potrebbe essere effettivamente un evento tremendo, insomma, se addirittura c'è questa mobilitazione dei taxi al posto delle ambulanze. Ci fermiamo brevemente, aggiorniamo chi sta viaggiando e poi torniamo con altri temi. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E lo sapete che se ascoltate Effetto Notte siete al posto giusto nel momento giusto, anche con la vostra conduttrice Roberta Giordano e con i messaggi che state mandando sull'essere d'accordo con il Parlamento europeo a proposito di una velocizzazione dell'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea oppure lasciare i tempi dovuti. Ilaria dice meglio in fretta e col minimo spreco di cartucce che paghiamo tutti noi, dice inutile prolungare l'agonia se l'esito è scontato. Marco, basta campagna di terrore per la Brexit, finitela, vi pare che in Inghilterra non si siano informati a dovere? Non sono mica in Italia dove l'informazione è al 77° posto e più, dice Marco da Varese. Intanto, ritornando sulle notizie, ci siamo lasciati prima con questo aggiornamento dalla Turchia, con questo di nuovo Marco Barbonaglia in collegamento. No, almeno 40 feriti, ecco questo è l'aggiornamento, passeggeri barricati nell'aeroporto, nei negozi dell'aeroporto, un kamikaze nell'area partenze, quindi kamikaze se fino in fondo se è morto oppure no, e quindi vi potete immaginare già che situazione disastrosa ci sia all'aeroporto Ataturk di Istanbul, 40 i feriti, non è ancora chiaro se sia un attacco suicida, se ci sia qualche terrorista che ancora vuole spargere sangue e terrore. Comunque vi terremo costantemente aggiornati. Intanto adesso direi che vi ricordo anche le altre notizie e poi parliamo anche di altre cose. Il Parlamento europeo spinge per la Brexit, così ha votato oggi. Juncker, presidente della Commissione europea, duro, dice niente giochi, e la cancelliera Merkel sottolinea per la Gran Bretagna nessun privilegio. Poi le borse europee che rimbalzano, quindi rialzano un po' la testa dopo lo shock Brexit. Milano guida la riscossa con un più 3%, e intanto Draghi, presidente della Banca Centrale Europea, avverte sull'impatto che potrebbe avere la Brexit sul PIL dell'Eurozona, anche un meno 0,5%. L'ONU vota per l'ingresso dell'Italia in Consiglio di Sicurezza, ma adesso c'è ancora il voto di ballottaggio tra Italia e Olanda, bisogna vedere chi vincerà. E poi Euro 2016, la Germania nel mirino azzurro, e poi Montella che va come allenatore al Milan. Oh, adesso invece ci colleghiamo con la nostra Marta Cagnola. Ciao Marta. Ciao Roberta, eccoci. Per parlare di TV, perché sono in arrivo i palinsesti autunnali, già come anche per la moda, no? Ci si prepara prima, oggi sono stati presentati per esempio quelli della RAI, ci sono Marta dei volti nuovi, dei programmi nuovi, anche dei ritorni, qualche volta ritornano, no? Da Santoro, sì, a Eter Parisi, mi pare. Sì, allora da una parte c'è questa sorpresa, una delle poche sorprese, perché dopo tutto diciamo che le indiscrezioni erano già state tantissime, di questo ritorno in prima serata di Eter Parisi con Lorella Cuccarini per la prima volta entrambe insieme, la mia nemica amatissima, si chiamerà la trasmissione come quella vecchia canzone di Gianni Morandi. Diciamo nostalgia formato 35-40enni però, nostalgia per tutti quelli che le hanno vissute, che è rimasta da sicuramente nel cuore, no? Appunto. Sì. Poi da tanto tempo, insomma, Lorella Cuccarini non trovava una sua collocazione, invece addirittura Eter Parisi era andata a vivere a Hong Kong, quindi non la vedevamo da anni. Per quanto riguarda invece Michele Santoro, il suo arrivo su Rai 2 era ormai indiscrezione che circolava da tempo, però non si capiva cosa avrebbe fatto, si parlava di docufiction. Invece per ora è ufficiale, per ora appunto farà 5 serate speciali in diretta in esterna da alcune città italiane. Poi forse dal 2017 farà un nuovo format di cui non si sa nulla, però insomma questo è quello che farà per ora Michele Santoro. Senti, invece su ci sarà nel serata evento con Celentano e si dice Mina, per anche lanciare evidentemente il disco nuovo, sì, che stanno facendo, che dovrebbe uscire il 5 dicembre, mi sembra, no? Sì, non hanno voluto dire niente sulle modalità della cosa, perché sembra strano a tutti che davvero Mina voglia partecipare come conduttrice, come ospite. Non si sa come potrebbe sarebbe miracoloso se così fosse o no. Sì, perché Celentano lo abbiamo visto negli anni, anche con parsimonia, ma l'abbiamo visto. Mina l'abbiamo vista in realtà una volta sola, quando accettò di girare un video qualche anno fa, ma insomma Mina non la vediamo veramente da decenni. Quindi l'unico commento del direttore di Rai 1 Andrea Fabiano è stata: in qualche modo Mina ci sarà. E quindi si sa tutto e si sa nulla, ecco. Invece si sapeva già da qualche giorno, Marta, di che sarà cancellato Ballarò, no? Adesso in onda, sì, tra l'altro, per con Giannini. Sì, perlomeno il titolo non esisterà più e non esisterà più. Neanche il conduttore, almeno lì, in quella trasmissione. Allora, Massimo Giannini ha avuto, dice Daria Vignardi, direttore di Rai 3, altre offerte da Rai 3. Lei ha detto che gli ha fatto un'offerta bellissima, dalla quale però un'idea bellissima dalla quale però non si può dire nulla. Arriva con grandi discussioni un collega, secondo me bravissimo, che è Gianluca Semprini, che chi è abituato a vedere Sky G24 sia, ha condotto, per intenderci, i duelli tra gli aspiranti sindaci delle città. Che abbiamo seguito anche qui a Effetto Note. Ma tra l'altro, Marta, è un arrivo che ha fatto un po' discutere però, no? I giornalisti della Rai. Sì, ha fatto discutere molto, perché sai, in Rai ci sono moltissimi giornalisti e quindi c'è sempre questa sindrome del arriva un esterno. Succede anche coi dirigenti, ne abbiamo già tanti, arriva un esterno. Effettivamente poi ci sono stati anche dei concorsi per reclutare dei giornalisti in Rai. Vero è che non arriva un esterno qualunque, arriva un grandissimo professionista e soprattutto diciamo che la Rai dovrebbe comunque aggiudicarsi i migliori professionisti sulla piazza. Io capisco i colleghi interni che hanno accolto, addirittura ieri hanno ritirato le firme dai telegiornali, quindi una protesta. Perché dicono ci sono le risorse interne, perché andare a prendere. Senti, a proposito di risorse invece, questa della 7, Crozza, che invece anche questa notizia già anticipata, no, se ne va, lascia la 7 e va a Discovery. Sì, è la grande notizia che è stata dei palinsesti Discovery, che sono gli unici che hanno poi già svelato le loro carte la scorsa settimana, una decina di giorni fa. Ebbene sì, Maurizio Crozza, anche questa era una di quelle notizie che sono sempre un po' i segreti di Pulcinella. Si diceva arriverà sulla 7, sì, arriverà sulla 7 ed è praticamente il più grande acchiappo, diciamo così, dei palinsesti Discovery. Lascia la 7 quindi va a Discovery, appunto. Sì, sì, sì, sì. Invece Mediaset la prossima settimana svelerà tutto. Ha già fatto un incontro con investitori, clienti, ma il vero disvelamento del palinsesto, che è quello alla stampa, avverrà lunedì sera, lunedì 4. E quindi magari ci aggiorniamo. Grazie Marta Cagnola. A presto. Ciao Marta. Ora invece ci ricolleghiamo di nuovo con Marco Barbonaglia in Turchia per seguire se ci sono dei dettagli ulteriori su questo attentato all'aeroporto di Istanbul. Marco. Ciao, dunque le ultime novità sono, secondo Don News ci sarebbe un morto, si parla anche di molti feriti, forse 40, forse di più. In questo momento il primo ministro Binali Yildirim ha formato un'unità di crisi e in questo momento ci sono varie conferme, è in corso un'operazione delle forze speciali, non si sa se della polizia o dell'esercito addirittura. Le immagini mostrano persone che cercano rifugio nell'aeroporto in preda al panico e ci sono non conferme ma quantomeno forti sospetti, arrivano molte informazioni che oltre a spari parlano di una delle due esplosioni come un attentato suicida. E queste per ora sono tutte le informazioni che abbiamo, ma ne arrivano di continuo, quindi immagino che ci risentiremo dopo. Dopo o nelle prossime edizioni dei GR24. Grazie Marco Barbonaglia della Turchia. Adesso invece cerchiamo di riprendere un po' di fiato con Dario Ricci. Adesso vedo almeno 10 morti, quest'ultima agenzia, arrivano così ogni poco, arrivano degli aggiornamenti. Dario Ricci dalla Francia con Euro 2016. Dario, qui parliamo di altre preoccupazioni, cose molto contenute naturalmente, ma ogni tanto per passare ad altri temi. Niente di serio, cara Roberta, parliamo solo di calcio, fortunatamente. Tra l'altro vi parlo da una bellissima sagra di paese, Montpellier, Massa di Staforza. Non alzare il gomito troppo, Dario, che devi essere No, per carità, ma è un momento conviviale molto bello che dà anche l'idea del clima che accompagna questi europei che erano stati invece preceduti da grande paura e poi soprattutto dalle violenze degli hooligan. Però mi pare Dario che la preoccupazione principale di Conte sia su due calciatori infortunati adesso in vista della sfida con la Germania. Sì, assolutamente sì, direi che su una le speranze di recuperarlo sono di fatto perdute, cioè Antonio Candreva, ne abbiamo raccontato tante volte anche insieme, Roberta, questo infortunio muscolare, questo stiramento sembra davvero aver posto fine al suo europeo, mentre c'è la speranza di recuperare per la sfida di sabato, lo ricordo, alle 21 a Bordeaux contro la Germania, Daniele De Rossi, che pure ieri nell'impresa a Saint-Denis contro la Spagna è uscito al 53esimo per una brutta botta all'anca. C'è la speranza che in questi giorni che mancano alla sfida di sabato con i tedeschi il dolore e il fastidio procurato da questa botta possano rientrare. Sarebbe davvero fondamentale anche perché De Rossi al momento della sostituzione era stato sicuramente uno dei migliori azzurri in campo, quindi bruciamo le dita, speriamo bene, ma abbiamo anche la certezza che comunque la nazionale di Conte funziona, darà tutto contro i campioni del mondo. E anche tu non mangiare proprio tutto, Dario Ricci, contieniti, alla sagra francese. Noi ci risentiamo alle 22.